il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Attorno agli anni 50, nella atea Unione Sovietica, comincia a nascere una religione, una febbre, qualcosa che la gente che ha così poche cose da seguire comincia a seguire con una fede straordinaria. Tutti vengono pervasi dalla febbre dell'esplorazione spaziale. Milioni di russi cominciano a rivolgere i cuori verso quell'ampia volta stellata che in qualche modo forse prometteva un futuro glorioso al primo popolo che l'avrebbe conquistata, e da parte dei russi, insomma, un futuro in qualche modo più libero. Dopo il mito dello stacanovista, il mito tipicamente staliniano, no, dell'operaio che lavorava producendo e basta, nasce il mito del cosmonauta, la versione sovietica dell'astronauta, l'uomo che naviga l'universo intero. E il messia di questa nuova religione fu il mitico Yuri Gagarin, il primo uomo a volare nello spazio nel 1961. Prima c'era stata solo la cagnetta Laika, vi ricordate? Bene, in suo onore l'Unione Sovietica ha eretto un monumento in titanio alto 40 metri, una specie di Cristo moderno e alternativo per celebrare degnamente questa nuova religione di Stato. Oggi però non parliamo di Gagarin, ma di un altro servitore di questa religione che in qualche modo si è però trasformato, se non in un martire, quantomeno in un ostaggio dello spazio. Oggi parliamo di Sergei Krikalev, e il cosmonauta che la storia, quella con la S maiuscola, ha bloccato per 311 giorni nella stazione spaziale Mir, mentre sulla Terra, nel suo paese natale, tutto stava cambiando e l'Unione Sovietica e il comunismo stavano finalmente per dissolversi. E come tutti i russi, Sergei cresce con il mito di Gagarin. L'unica differenza è che, essendo anche lui un cosmonauta, sa perfettamente cosa c'è dietro all'idea romantica del primo uomo in orbita nello spazio. Il vero significato del volo di Gagarin è chiaro. È stato il primo volo verso l'incertezza. Oggi può sembrare banale, ma se si pensa ai compiti che il primo cosmonauta doveva svolgere, non erano così banali. Cercare di deglutire, cercare di respirare. Nessuno era certo che una persona avrebbe potuto respirare regolarmente nello spazio. Nessuno aveva la sicurezza al 100% che la persona avrebbe potuto resistere psicologicamente in uno stato di microgravità o in un ambiente ad alta accelerazione. E dunque il volo di Gagarin è stato davvero un passo verso l'ignoto. Senza questo passo, nient'altro sarebbe stato possibile in futuro. Per questo il volo di Gagarin è stato un grande evento nella storia dell'esplorazione spaziale russa e ci ha permesso di compiere ulteriori passi, perché abbiamo capito che il primo è stato possibile. Il primo passo di Sergei Krikalev verso lo spazio inizia quando nel 1981 si laurea in ingegneria meccanica all'Istituto di Leningrado, la città dove nasce il 27 agosto del 1958. Oggi sarebbe San Pietroburgo, ma allora era Leningrado. La maggior parte dei ragazzi che vuole andare nello spazio segue il percorso classico dell'arruolamento nell'aviazione militare. Lui invece inizia a volare da civile, arriva a vincere un campionato nazionale di volo acrobatico. Dopo la laurea entra nell'organizzazione industriale russa, è responsabile delle attività di volo spaziale con l'equipaggio. Insomma, si occupa soprattutto di testare l'equipaggiamento dei voli spaziali, di sviluppare metodi di sviluppo nel cosmo. E sono lavori però che per il momento lui può svolgere da terra. La sua occasione, la possibilità del suo colpo d'ala arriva nel 1985, quando La stazione spaziale Soyuz, Salyut, come si dovrebbe dire, che in quel momento non ha equipaggio, va incontro a una perdita di potenza. Lui lavora col team di soccorso, sviluppa procedure per l'attracco, per la riparazione della stazione. Insomma, riesce a distinguersi e in quell'anno viene selezionato per diventare cosmonauta. Attenzione, negli Stati Uniti basta superare, anche se basta, fa un po' ridere, ma basta arrivare solo a un'altitudine di 80 km per essere considerati astronauti. In Russia bisogna aver compiuto almeno un giro orbitale per essere considerati cosmonauti a tutti gli effetti, quindi la selezione è molto più dura. Nell'86 Kiryaliev viene assegnato al progetto Buran, l'equivalente russo dello Space Shuttle. Il veicolo però compirà solo un viaggio orbitale senza equipaggio. Insomma, Sergei deve aspettare ancora per vedere avverarsi il suo sogno di volare. Il falco e il gabbiano. E insomma, la grande occasione di Sergei Krikalev arriva quando comincia il suo addestramento per sostenere un volo di lunga durata, arrivare sulla nuova enorme stazione spaziale sovietica, la Mir. In russo Mir vuol dire pace, infatti per i sovietici il progetto dovrebbe essere un passo ulteriore verso il sogno del cosmo, una stazione spaziale modulare che viene assemblata, diciamo, come un Lego fino a raggiungere le 250 tonnellate di massa. Ma quello che ha fatto grande la Mir è stata soprattutto l'occasione di collaborare con il programma spaziale americano, e questa è una svolta, insomma, per due paesi che dopo la fine della seconda guerra mondiale si sono guardati troppo spesso in cagnesco. Negli anni lo shuttle comincia a attraccare molte volte alla base spaziale, che in cambio di rifornimenti e di trasporti forniva spazio e attrezzatura scientifica agli americani. Ed è in questo microcosmo, se possiamo chiamarlo così, che Sergei Krikalev atterra la prima volta nel novembre dell'88. Della squadra fa parte anche un francese, l'astronauta Jean-Luc Chrétien, perché la spedizione è sostenuta anche dalla Francia. Cominciano a finire gli anni in cui lo spazio era semplicemente l'ennesima occasione delle grandi potenze di sfidarsi. Nel suo periodo di permanenza sulla Mir, Krikalev comincia a effettuare delle passeggiate nello spazio, fa dei test sulle apparecchiature e insomma il suo soggiorno dura 151 giorni, quasi 5 mesi. Torna in Unione Sovietica a fine aprile dell'89, 5 mesi trascorsi in piccoli abitacoli a gravità zero, a 400 km di altitudine, orbitando 15 volte al giorno intorno alla Terra alla velocità media di 27.700 km orari. Nell'aprile 1990 Krikalev si prepara per una nuova missione sulla Mir. L'equipaggio è composto da tre cosmonauti. Questa volta con loro c'è una chimica inglese, Helen Sharman, scelta tra i 13.000 candidati a questo viaggio sponsorizzato dalla Gran Bretagna per sottolineare la cooperazione con l'Unione Sovietica. All'epoca Helen Sharman ha solo 27 anni, è la più grande avventura della sua vita, quando il 19 maggio sale sulla scaletta del razzo Soyuz pronto a partire da Baikonur, che è la Cape Canaveral sovietica. Deve attendere che i suoi due compagni di viaggio, Krikalev e il comandante Astebarsky, compiano un rito, il rito che ha iniziato Gagarin nel 61 è diventato una tradizione, la tradizione che quando si scende dal bus, prima di salire sul mezzo, gli uomini vanno sul retro, si calano la tuta spaziale e fanno la pipì, una procedura che alle donne viene fortunatamente risparmiata. Insomma, il viaggio può iniziare. Il lancio in se stesso dura appena 8 minuti e improvvisamente ti senti senza peso, solo che sei ancora legato al sedile, perché c'è ancora un'ora e mezzo di operazioni da fare, in cui devi controllare che tutto funzioni come dovrebbe, anche in caso di un ritorno d'emergenza sulla Terra. Quindi devi fare i test e controllare che vada tutto bene. A questo punto puoi finalmente slegarti e galleggiare. Ed è in questo momento che tutto il tuo corpo è finalmente libero. Anche se poi ti tocca restare in questa piccola capsula per altri 2 giorni, fino a quando si arriva alla stazione spaziale. Qui, finalmente, ti puoi allungare e galleggiare dentro al modulo fino in fondo. Ellen Sharman, la chimica inglese ospite della navicella Soyuz nel 91, viaggia assieme a Sergei Krikalev verso la stazione spaziale Mir, che nel frattempo, ricordiamolo, sta orbitando attorno alla Terra. Quando raggiungono la destinazione, i 3 astronauti vengono accolti dall'equipaggio precedente. Ricorda la Sherman che il primo impatto non è tutto rose e fiori. La Mir è famosa per essere rumorosa e anche puzzolente, perché non si può cambiare aria, e lei non può non notare come l'odore è quello del calzino sporco. Insomma, questo mi fa venire un po' meno passione per i voli spaziali. E poi tra ventilatori, macchinari, pompe, il rumore è veramente assordante. Poi lei si sorprende a osservare la calma, anzi la gioia con cui Krikalev si inoltra nei moduli spaziali. Sergei diceva sempre che quando arrivava sulla Mir si sentiva come se stesse arrivando a casa. Krikalev non ha timore di annoiarsi e a lui basta guardare fuori dall'oblò per essere felice nei momenti liberi dal suo lavoro, dai test, dalle sperimentazioni. Dall'alto dice: la Terra è bellissima e non ne dubitiamo. Dopo 8 giorni, Ellen Sharman lascia il programma e l'odore di calzini della Mir e parte insieme ai 2 piloti della missione precedente, Viktor Afanasiev e Miusa Manarov, mentre Krikalev e Arstebanski rimangono sulla stazione. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Sergei Krikalev, il cosmonauta sovietico, e stiamo per arrivare a quel 1991 nel quale lui si troverà al centro di una delle situazioni più bizzarre che possano capitare a una persona. 400 km di altitudine, e lì, da quel punto di osservazione, lui guarda il collasso del suo paese e di un intero sistema, l'Unione Sovietica. Orbita dopo orbita scopre che la sua città natale, Leningrado, non si chiama più così, torna a chiamarsi San Pietroburgo. È il disfacimento di un paese, di un ideale, di un pensiero, di un establishment, di un sistema. Le conseguenze per Krikalev saranno incredibili, ma andiamo per gradi. Dopo la partenza di Ellen Sharman, la giovane inglese ospite della Mir per una settimana, Krikalev e il comandante Arstebanski restano soli. Con l'arrivo dell'estate compiono 6 passeggiate nello spazio, una serie di test di funzionamento delle sofisticate apparecchiature a bordo della stazione spaziale. Insomma, tutto funziona molto bene, ma nel loro paese le cose non vanno altrettanto bene. Da quando è stato fatto segretario nel 1985 Mikhail Gorbachev, è iniziato un processo di innovazione del sistema politico sovietico. Strumenti importanti, me lo ricordo, in quegli anni suonavo in Russia un anno sì e un anno no. È il momento della perestroika, è il momento della glasnost, che vuol dire la trasparenza. Tutto l'intero sistema economico e politico del paese si sta ristrutturando. Di fatto questo comincia a porre fine all'isolamento della superpotenza russa e delle nazioni satelliti, il famoso patto di Varsavia. E tutto questo poi culmina nel crollo del muro di Berlino. Naturalmente questo è un processo doloroso, complesso, difficile. Vengono innescati invece dei moti indipendentisti nelle repubbliche che compongono il mastodontico territorio sovietico, che sono 15. La prima a abbandonare la madre patria, che poi patria non è, è la Lituania nel marzo del 90, con anche degli scontri che avvengono a Vilnius. Poi nel 91 si staccano la Lettonia, l'Estonia, poi la Georgia. Insomma, l'impero sovietico comincia a perdere dei pezzi. Gorbaciov nel 1990 è diventato presidente, che cerca di arginare questo salasso, concede maggiori autonomie alle restanti repubbliche, ma il processo è inarrestabile. Il primo luglio del 1991 viene sciolto il patto di Varsavia, che era la NATO degli stati dell'Europa dell'Est, erano uniti politicamente ma soprattutto militarmente all'Unione Sovietica. Nelle intenzioni di Gorbaciov il secondo passo sarebbe la firma di un nuovo trattato d'unione che prevede tutte le repubbliche sovietiche indipendenti sotto uno stesso presidente, ma l'idea non sta funzionando. Edizione straordinaria, eccola qui, vediamola insieme. Golpe in Unione Sovietica, destituito Mikhail Gorbaciov, il mondo trema, crollano le borse, il vice Yanayev ha preso il potere, affiancato dal primo ministro e dal ministro della difesa, carri armati nelle strade di Mosca, Boris Yeltsin invita allo sciopero, Gorbaciov arrestato. Il 19 agosto il vicepresidente di Gorbaciov, Gennady Yanayev, insieme al primo ministro, al ministro dell'interno e quello della difesa, sostenuto da un gruppo di membri conservatori del partito, a impedire la firma del trattato, formando un comitato generale sullo stato di emergenza, di fatto destituisce Gorbaciov per prendere il potere. Però Gorbaciov riceve un aiuto inaspettato, perché il 12 giugno del 91 Boris Yeltsin aveva vinto le prime elezioni col 57% dei voti, era diventato il nuovo presidente della Repubblica Russa, la repubblica più vasta e potente di tutta l'Unione. Insomma, in quella fine d'agosto, nel quale il colpo di Stato avrebbe potuto avere conseguenze terribili, Yeltsin saggiamente si schiera a favore di Gorbaciov, condanna il golpe e i cittadini di Mosca sfilano per sostenere il loro presidente. Dopo tre giorni di incredibile tensione, in cui tutto il mondo assiste col fiato sospeso agli sviluppi russi, i golpisti falliscono, vengono arrestati, mentre Gorbaciov torna a essere presidente dell'Unione Sovietica. Però l'Unione Sovietica di fatto non esiste quasi più, è il principio della fine. Il 29 agosto il Partito Comunista Sovietico finisce di esistere, viene messo definitivamente fuori legge. In tutto questo Sergei Krikalev sta girando attorno al mondo a bordo della Mir e non sa nulla dei giorni frenetici che stanno sconvolgendo il suo paese e tutto il mondo. È ignaro della fine del partito, che è stato per decenni il grande orchestratore della vita di tutti i sovietici come lui. Non sa che non ci sono neanche più i sovietici. Lui continua con il suo soggiorno nel cosmo. A luglio aveva consentito di fermarsi ancora un po' per coprire l'assenza di un ingegnere per il volo previsto per ottobre, e per questa data il comandante Arstiebanski invece aveva lasciato la Mir. Insomma, Krikalev resta solo nello spazio, solo che questa volta la data del suo ritorno non è più così chiara e lui non può sapere che sotto di lui l'Unione Sovietica si è dissolta e non esiste neanche qualcuno che possa avere l'autorità per riportarlo a casa. Per noi è stata una cosa del tutto inaspettata. Non abbiamo capito cosa fosse successo. Quando ne abbiamo parlato insieme, abbiamo cercato soprattutto di capire che impatto tutto questo avrebbe avuto sul programma spaziale. E nei mesi a seguire, a una le repubbliche sovietiche diventano ex repubbliche sovietiche. Per esempio nel 91 a dicembre la Repubblica Russa dichiara la sua indipendenza, e poi c'è il Kazakistan. Il 25 dicembre del 1991 Mikhail Gorbaciov si dimette dall'incarico di presidente dell'Unione Sovietica, che di fatto non esiste più. Il mondo, per come è esistito per più di 50 anni, diviso in due superpotenze tra contrasti e frizioni perenne, evapora in pochi mesi. Il problema è che la Repubblica Russa di fatto avrebbe ereditato i programmi spaziali della dissolta Unione Sovietica, ma non ha le risorse per gestirli, mancano i soldi. Il Kazakistan è diventato una repubblica sovrana e indipendente, non è più disposto a mettere a disposizione il cosmodromo di Baikonur, la base di lancio delle navicelle sovietico, a meno che qualcuno non paghi un lauto compenso. Insomma, è un problema e qualcuno deve spiegarlo a Krikaliev. Il problema principale era economico, perché avevano bisogno di risparmiare risorse, ma si rendevano anche conto che per me sarebbe stata dura, perché non era una cosa buona per la mia salute. D'altra parte, il paese era in tali difficoltà che la possibilità di risparmiare denaro era diventata la priorità. Non ci sono solo le grandi difficoltà per la Russia, ci sono anche quelle di Krikaliev. Nessuno era stato mai per così tanto tempo in orbita. Avrebbe dovuto rimanere nello spazio per 5 mesi, adesso siamo arrivati a dicembre, i mesi sono quasi 8, 250 giorni chiuso in una gabbia posta a 400 chilometri di altitudine, lanciata a 27.700 chilometri orari, che fa 15 giri al giorno attorno al pianeta. E sulla Terra cominciano a preoccuparsi, l'equipe di medici comincia a chiedersi che tipo di effetti questa vita può avere sul fisico di un uomo. Vi ricordate all'inizio della puntata, Krikaliev ci diceva quanto il primo volo di Gagarin fosse stato un salto nel buio, perché non si sapeva nulla. Adesso si sapevano più cose, ma esisteva comunque la possibilità che un regime come quello della vita nello spazio, portato avanti per così tanto tempo, potesse avere effetti negativi sul fisico, sul sistema immunitario, magari sullo scheletro, sui muscoli. Avrò abbastanza forza. Sarò in grado di adattarmi a questo soggiorno più lungo per completare il programma. Naturalmente, a un certo punto ho avuto i miei dubbi. Intanto la Russia sta cercando soluzioni. Intanto cerca di vendere a caro prezzo i posti sulle navicelle spaziali. Così sulla Soyuz parte l'austriaco Franz Wiebock e poi parte un pilota kazako nella speranza di ottenere uno sconto per poter utilizzare la base di Baikonur. Insomma, dopo avere faticosamente raggranellato le risorse necessarie, i russi sono in grado di comunicare a Krikaliev che si è riusciti a mettere in piedi un equipaggio con un ingegnere in grado di sostituirlo. Finalmente, il 25 marzo del 1992, il cosmonauta emerge dalla capsula del Soyuz atterrata sulla Terra. È bianchissimo, è sudato, è così debole che all'inizio i soldati devono aiutarlo a scendere dalla scaletta, c'è chi gli fa aria con un fazzoletto, viene quasi accecato dalla luce del sole. Lui ha ruotato attorno alla Terra circa 5.000 volte, rimanendo nello spazio per 311 giorni e 20 ore. È stato molto bello, nonostante il peso della gravità che abbiamo dovuto affrontare di nuovo. Ma psicologicamente ci siamo sentiti invece liberati da un peso. C'è stato un momento, forse non lo definirei proprio euforico, ma di certo è stato molto bello. Ci vorrà qualche giorno prima che Krikaliev torni alla piena forma fisica, però ci vorrà molto più tempo perché lui possa comprendere in che misura il suo mondo sia stato sconvolto dagli avvenimenti. Intanto lui abita in una città che non si chiama più Leningrado, ma che adesso si chiama San Pietroburgo come un tempo, e poi non ha neanche più una patria, adesso c'è la Repubblica Russa, perché l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche non esiste più, e poi non ha più una bandiera, la bandiera rossa con la falce e il martello ha lasciato il posto al tricolore della Santa Madre Russia. Eppure ai giornalisti che gli chiedono quale dei cambiamenti accaduti in quei mesi l'abbia sorpreso di più, Krikaliev dà una risposta quasi filosofica, influenzata dal tempo sospeso che ha trascorso sulla Mir. Quello che mi ha sorpreso di più, che quando sono partito la terra era scura e ora è bianca per la neve, che l'inverno è arrivato mentre prima era estate e che ora tutto sta cominciando a rifiorire. Questo è il cambiamento più incredibile che si vede dallo spazio. ed è una risposta filosofica, ma anche molto, molto diplomatica. E nel giugno del 1992 il presidente Bush, padre, e il presidente Yeltsin si incontrano a Washington per finalizzare un accordo che avvicina lo shuttle alla Mir, di fatto dando inizio a un futuro di progetti comuni che culmina con la costruzione di una nuova stazione spaziale internazionale, la ISS, iniziata nel 98, gestita in comune da gli Stati Uniti con la NASA, la Russia, l'Europa, il Giappone e il Canada. Come risultato di questo accordo, nel 94 Sergei Krikaliev è il primo cosmonauta russo, quindi non più sovietico, a salire su uno space shuttle americano per raggiungere la Mir, che ormai è la sua seconda casa. Sempre Krikaliev nel 98 è il primo, insieme all'astronauta americano Robert Cabana, a lavorare alle operazioni di assemblaggio della stazione spaziale ISS. Fa parte della squadra che per prima entra nel 2000. Al termine di queste spedizioni, Krikaliev ha stabilito il record di 803 giorni, 9 ore e 39 minuti trascorsi nello spazio. Praticamente quest'uomo ha passato 2 anni, 10 settimane, 2 giorni e 22 ore in un altro posto che non è la Terra. Ci sono storie di persone che hanno avuto un colpo d'ala, persone che invece sono state abbandonate nello spazio a dare colpi d'ala senza che potessero tornare a casa, persone che in qualche modo hanno visto passare un mondo che diventava un mondo diverso e ne sono usciti. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei Facebook, Twitter e sui nostri social omonimi. Se volete, sapete dove sono. Ciao, a lunedì.